Il mio lavoro nasce attorno a una critica alla rete di metropoli C40 e al tentativo di capire come questo tipo di soggetto, che negli ultimi anni sta crescendo in numeri e in ruolo, abbia appunto un posizionamento nelle trasformazioni degli equilibri del capitalismo, come le città e le metropoli diventino essenzialmente i luoghi più avanzati di sperimentazione di forme di estrazione di ricchezza dal contesto urbano e umano, e come appunto questa rete di C40 diventi di fatto un nuovo soggetto che va a superare in qualche modo anche alcune forme del diritto, di fatto facendo sì che le città dialoghino tra di loro, trovino forme di legge, di proposta di governo del territorio che supera anche le stesse leggi nazionali. E quindi, partendo da questo presupposto, ho provato a capire che cos'è questa rete, come si sviluppa la città del capitale, e per farlo ho intervistato giornalisti, ricercatori, studiosi, docenti universitari un po' in tutto il mondo, col tentativo di guardare oltre alle città occidentali, del mondo occidentale, ma guardando anche quindi quelle dei paesi via di sviluppo, dei paesi poveri, guardando un po' a tutti e cinque i continenti, anche se poi alla fine sono riuscito a rappresentarne di fatto quattro, perché il continente australiano purtroppo non sono riuscito alla fine ad avere voci da quello spazio, da quel contesto. Perché la città è diventata così centrale? Lo vediamo in alcune piccole o grandi proposte, no? Se facciamo l'esempio di questa rete, no? Proprio di paesi che per esempio decidono di bandire da un anno con l'altro il diesel dal contesto urbano, capiamo di per sé che si porta dietro degli strascichi più ampi. Se Parigi, come dice, no, dal 2025-2028 vieterà a qualsiasi mezzo diesel di entrare nella sua cerchia anche più larga, così come dovrebbe fare Roma, Berlino e altre città, che cosa si porta dietro? Che le macchine diesel e i mezzi diesel tendenzialmente scompariranno e se ne svilupperanno altri, probabilmente quelli elettrici, eccetera eccetera. Quindi di fatto le città, le scelte che fanno le grandi metropoli, che oggi ricordiamo, tanto dal 2015 vediamo che il tessuto urbano, cioè gli abitanti dell'urbano, sono diventati superiori a quelli delle campagne e del rurale. Questo superamento è la prima volta nella storia che accade, e vediamo che di fatto ciò che accade fuori dalle città e anche fuori dalle metropoli è asimmetrico, ovvero ciò che le città, le metropoli, soprattutto le grandi metropoli mondiali, che in questo momento hanno la grande maggioranza degli abitanti del mondo, determinano, va in maniera trasversale a influire sulle piccole e medie città e anche soprattutto sul contesto rurale. Quindi di fatto il governo della metropoli, il governo delle città, diventa un governo totalizzante per tutto il tessuto mondiale, e questo va assunto, tanto che per esempio la NATO in un suo report di inizio 2000 dichiarava che dal 2020 in poi i conflitti si sarebbero combattuti dentro le città, perché le città sarebbero diventate il luogo proprio della conflittualità e del governo del territorio. Quindi, per dirti, anche gli elementi militari e l'intelligence militari guardano a questo fenomeno, a questa concentrazione di forze che ci sono dentro proprio le città. Dalle diverse interviste che hai fatto su diverse città in giro per il mondo, emergono però dei tratti comuni che possono fare immaginare certi processi come globali. Sì, infatti, per esempio, le forme di repressione per governare e assoggettare il tessuto cittadino alle logiche speculative che le governano, che siano la turistificazione, che siano il decoro, che siano le forme di organizzazione urbane, sono per esempio un elemento comune. Come l'elemento comune è il tentativo appunto di modellare la città fiaccando le resistenze e le forme alternative che la possono vivere nel nome di un percorso di ricchezza e di sfruttamento proprio della ricchezza della città. Non è un caso che questo libro, per esempio, per me nasce in continuità al lavoro e agli studi fatti di critica alle politiche del decoro. Avevo scritto un libro precedentemente che si chiama Elogio alle Tag, ho lavorato molto con compagni e compagni come Wolf Bukowski, che lui ha scritto un libro bellissimo e fondamentale, La piccola storia del decoro, e di fatto questo studio che guarda anche oltre. All'Italia continua un po' in questa mission che mi ero dato, perché secondo me, per esempio, il decoro è una forma proprio di governo, assoggettamento della città, che va a plasmare sia dal punto di vista della repressione il tessuto urbano, sia a ridisegnarla per renderla una città da attraversare e quindi su cui sfruttare ricchezza tramite i turisti. E questo vediamo che in diverso modo viene fatto in tante delle metropoli, non solo occidentali, di cui appunto c'è stata la possibilità di parlare con gli interlocutori e le interlocutrici. Torno un attimo all'esempio che hai fatto prima sul diesel, no? Perché magari non appare subito chiaro a tutti e a tutti che dietro a una questione che può essere anche ambientale, quindi sacrosanta, però c'è anche un elemento di classe, cioè chi può, come dire, adeguare il proprio sistema di trasporto è solitamente la componente più ricca della società. E certo, è questo che si porta dietro, perché ovviamente io sono assolutamente a favore ovviamente dell'ambientalismo e delle lotte ambientali. Dobbiamo capire se quello di sospendere la produzione di diesel sia davvero in quest'ottica, no? Prima di tutto. E la seconda è trasformare di colpo e togliere di colpo dalla viabilità mezzi, significa che solamente chi può permettersi di comprare un mezzo nuovo ed ecologico può circolare con la libertà che gli permette di avere il mezzo privato, se no significa quello di usare i mezzi pubblici. Ma lo sappiamo molto bene, purtroppo, che i mezzi pubblici vivono un'ottica di costante tagli, e lo vediamo un po' in tutte le metropoli, in tutti i contesti urbani, perché un po' ciò che è pubblico viene un po' tagliato e perimetrato, e quindi non c'è un discorso che va di pari passo, ovvero tolgo il diesel, so che molte persone non potranno più circolare liberamente col loro mezzo, e sviluppo e rafforzo trasporto urbano a basso impatto ambientale. No, questo non avviene, al massimo vengono dati degli incentivi per comprare nuovi mezzi privati. Quindi di fatto anche lì bisogna ragionare perché il diesel viene cancellato e la benzina no. Quali sono le lobby che sostengono uno o l'altra produzione di carburante? Questo è l'unico modo possibile per spingere le macchine elettriche? Insomma, ci sono tante domande dietro che ovviamente non sono interessanti per chi governa le città, perché secondo me, per esempio, il percorso di C40, ritornando al suo ruolo, è una grande operazione di greenwashing. Dietro a un'estetica green vediamo per esempio le parole e la direzione che sta prendendo la città di Milano, no? Con grandi trasformazioni urbane, dove col fatto che fai il pratino che garantisce la tenuta ecologica, eccetera eccetera eccetera eccetera, ritrasformi la città iniettando possibilità di edificare e di costruire, però con quest'ottica più green. Quindi di fatto è un modo per giustificare le trasformazioni urbane usando l'ambiente, la necessità di una trasformazione delle politiche ambientali per giustificare movimenti di mercato. Poi sarebbero anche tanti altri gli spunti, ma come dire, invito ascoltatrici e ascoltatori a venire domani all'ex centrale del latte in via di Corticella 129. L'iniziativa è all'interno di una serata benefit per il futuro di Radio Onda d'Urto.